I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. La fotografia che ha scattato l'Istat sul 2014, che si è da pochi mesi concluso, è impietosa e non lascia spazio a interpretazioni. Il nostro PIL, il prodotto interno lordo, è tornato ai livelli del 2000, la disoccupazione ha toccato un nuovo record, il debito pubblico è salito al 132%, un record dal 1995. In aggiunta sono crollati gli investimenti del 3,3% e c'è stata una lievissima ripresa solo dei consumi delle famiglie, già molto compressi negli anni precedenti. Dati impietosi quindi, solo in parte mitigati da quelli relativi alla disoccupazione a gennaio, che ha visto comunque calare leggermente l'indice di disoccupazione generale e anche l'indice di disoccupazione giovanile. In aggiunta, sempre ieri abbiamo avuto la notizia che il nostro BTP a 10 anni ha toccato un rendimento minimo storico per la prima volta sotto l'1,3%. Che cosa ci dicono quindi tutti questi dati? Ci dicono che il 2014 è stato un anno che ha messo ulteriormente in ginocchio il nostro paese, che qualche segnale di ripresa si sta vedendo nei primi mesi del 2015, che ci si può attendere molto ed è giusto attenderselo dall'iniziativa di Mario Draghi che partirà ufficialmente lunedì prossimo e quindi l'acquisto di titoli di Stato da parte delle banche centrali e che qualcosa si può attendere anche dal piano Juncker di investimenti europei. Ma tutto questo non deve farci dimenticare il livello profondamente basso a cui siamo arrivati, a cui ci hanno portato 5 anni di crisi finanziaria prima e di austerità senza altro sbocco dopo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Alessandro Plateroti. Salone di Ginevra, salone dell'auto, salone soprattutto per Marchionne che ancora una volta ha colto l'occasione di confrontarsi con i giornalisti per fare un po' il punto sulle strategie della ex casa torinese, oggi casa olandese e casa inglese, in parte poiché la sede legale e quella fiscale sono state spostate. Ma qual è la grande novità? Partiamo dal mercato. In America, dove la Fiat Chrysler ha gran parte delle sue speranze, purtroppo i dati di vendita non sono felici. Più 5,6% le vendite della Chrysler, meno 5% quello della Fiat. Un po' una doccia scozzese su un mercato che sembrava dare forti segnali di ripresa. Per la Fiat l'America è strategica, non soltanto per le auto della Chrysler, per le Jeep che vende, ma soprattutto perché deve quotare in borsa la Ferrari, dopo aver già fatto il listing della Fiat. E proprio lì potrebbero esserci le novità più interessanti. Con il titolo Fiat, che ormai ha raddoppiato il valore, più 20% soltanto quest'anno, e con il progetto Ferrari che sta entrando un po' nel vivo, che cosa succederà? Succederà che molto presto la Fiat metterà il 10% della Ferrari in borsa, lo venderà cioè sul mercato e chiunque potrà comprarlo, e scambierà poi il 39% delle azioni rimanenti con gli attuali azionisti della Fiat. Sostanzialmente chi possiede un titolo Fiat riceverà un titolo Ferrari. Alla fine di questo gioco la famiglia Agnelli avrà circa il 51% e il 49% sarà sul mercato. Qual è il problema? Il problema è che nella Formula 1 servono tanti soldi. Finora la Ferrari ha avuto un contributo fondamentale, ad esempio nelle corse, non tanto sul mercato dei superbolidi, quelli da strada, proprio dagli aiuti finanziari della Fiat. Che cosa succederà quando la Ferrari non sarà più in ambito Fiat, non sarà più sotto quell'ombrello? Molti se lo chiedono perché per partecipare al grande circo della Formula 1 non bastano soltanto le sedi all'estero, ma servono capitali da investire. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.